524. Arrosto di vitella di latte. La vitella di latte si macella in tutti i mesi dell'anno, ma nella primavera e nell'estate la troverete più grassa, più nutrita e di miglior sapore. I pezzi che più si prestano per l'arrosto allo spiede sono la lombata e il culaccio e non hanno bisogno che d'olio e sale per condimento. Gli stessi pezzi si possono cuocere in tegame, leggermente steccati d'aglio e ramerino con olio, burro e un battutino di carne secca, sale, pepe e sugo di pomodoro per cuocere nell'intinto piselli freschi. È questo un piatto che piace a molti.